Letture di Radio 24. Un quarto dei bambini sotto i 6 anni utilizza regolarmente la rete, mentre il 38% di quelli sotto i 2 anni ha già utilizzato dispositivi mobili per giocare o per guardare video. Ma secondo gli studi realizzati da Peter Gray, psicologo del Boston College, chi passa un'infanzia tra videogiochi e PlayStation tende a dimostrare una minore creatività. La sua proposta? Far tornare i bambini a giocare all'aria aperta, magari convincendo i genitori a superare le proprie paure. Arrampicarsi su un albero, giocare alla caccia al tesoro con gli amici, fare una gara di corsa e gettarsi nel fango. Il tutto prima dei 12 anni, per diventare più creativi e imparare ad affrontare la vita con più coraggio e autonomia di chi ha passato un'infanzia tra videogiochi e PlayStation, senza mai incontrare bambini sconosciuti o sfuggire alla sorveglianza dei genitori. Peter Gray, psicologo e biologo al Boston College, studia da anni gli indici di creatività dei ragazzini americani, constatandone il progressivo precipitare nella banalità. Tra il 1985 e il 2008, le risposte date al test di Torrance applicato nelle scuole americane hanno fatto scendere l'85% dei ragazzi intervistati sotto la media dei loro predecessori. Non sono più capaci di fornire tante risposte, né di darne di non scontate, né di trarre spunto da elementi diversi. In altre parole, non sono più in grado di avere un'elaborazione creativa. E di conseguenza diventeranno più difficilmente imprenditori, inventori, presidi di college, scrittori, dottori, diplomatici o sviluppatori di software. Ora Gray, nel suo saggio Lasciateli giocare, suggerisce a genitori e insegnanti di rivoluzionare i propri pensieri educativi. In casa, in giardino, in vacanza, i bambini non dovrebbero essere vigilati da vicino né indotti a partecipare, sempre, a sport rigidamente organizzati. Ma anche in Italia mamma, papà, scuole e amministrazioni civiche non sembrano essere sulla strada giusta. Solo il 6% dei bambini, come spiega l'ultimo rapporto di Save the Children, ha diritto a scendere in strada da solo e solo il 25% può giocare in cortile. Il 37% dei piccoli, 3 milioni e 700 mila, cresce in città. Alle difficoltà logistiche va aggiunta la paura dei genitori, che temono sopra ogni altra cosa un ginocchio sbucciato da una caduta, la tendenza a spogliarsi e rivestirsi incuranti della temperatura e i pericoli che potrebbero arrivare ai fratelli più piccoli giocando con i maggiori. Proteggerli, privarli dell'altalena o del pallone, difenderli furiosamente da qualunque sostanza possa sporcarli o contaminarli, dai piccioni alle cartacce, agli animali domestici, fino ai giornali e al gelato, senza dimenticare il terrore degli insetti, e consegnare loro una tastiera di qualsiasi genere, non vuol dire amarli, ma farli diventare ansiosi e disinteressati, con la vita e la scuola percepite come una lunga serie di ostacoli. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Vera Schiavazzi, Il tempo libero perduto dei bambini. Ecco come liberarli dallo smartphone. Dalla Repubblica del 20 marzo. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Letture di Radio 24. Condannato a 2 ergastoli per diversi reati, tra i quali 4 omicidi, il terrorista rosso Cesare Battisti è evaso dall'Italia nel 1981 e ha trovato rifugio in Francia, in Messico e poi in Brasile. Non si è mai pentito dei suoi crimini e si considera un perseguitato dalla giustizia italiana. In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, Pino Corrias lo definisce il più detestabile tra i pessimi italiani che ogni tanto trapelano nella schiuma delle cronache dalle loro lontane latitanze. Eppure, come spesso avviene, anche i criminali più feroci riescono a suscitare simpatie e nel corso degli anni molti scrittori e intellettuali hanno mostrato solidarietà al terrorista, da Gabriel García Márquez a Fred Vargas, da Daniel Pennac a Harry De Luca. L'eterno terrorista in fuga, Cesare Battisti, 61 anni, ex militante dei proletari armati per il comunismo, è piccolo, magro e ha il pallore permanente dei nervi tesi. Vive latitante da 33 anni. Ha tolto la vita alle sue vittime. Non ha mai restituito nulla, se non recriminazioni. Dice di sé: «Sono un fuggitivo, sono un poveraccio, sono innocente». Ma imbrogliando le carte della sua storia, pensa che non saldare il debito di vite umane sia nei suoi diritti. Ignora, o fa finta, che quella via di fuga intrapresa una volta per tutte sia il nodo scorsoio che soffoca qualunque sua piccolissima ragione, moltiplicando tra i suoi torti quello di essere la prova provata dell'irrilevanza dell'Italia nel mondo, visto che a ogni suo arresto i nostri governi promettono sfracelli diplomatici per ottenere l'immediata estradizione, salvo poi ingoiare figuracce. A dispetto del tempo che dovrebbe scolorire i ricordi e i risentimenti, Cesare Battisti li moltiplica. Credo sia colpa della sua ostinazione a prenderci per fessi, a ripeterci la storiella dei falsi pentiti che lo accusano, delle condanne senza prove, dei processi fatti inspiegabilmente in sua assenza, dello Stato italiano che lo perseguita. Le sue giustificazioni sono sempre le stesse: gli equivoci della giovinezza, i sogni della rivoluzione, la lotta di classe, come se bastasse amplificare le intemperanze di una generazione e le sue molto enfatizzate derive a predisporre il salvacondotto per i singoli che su quel dramma hanno volontariamente esercitato la loro idea di potere con il furore delle armi. Non funziona così. Prima di chiedere una soluzione politica, come da anni fanno gli ex terroristi ancora in fuga, bisogna offrirla, e offrirla con un gesto di riconciliazione, insieme con il coraggio di chiamarlo resa. Ma credendosi furbo, credendosi al sicuro dall'italietta che lo insegue, Cesare Battisti farà il contrario. Continuerà il suo viaggio, nascondendosi a tutti, anche a se stesso. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Pino Corrias, Battisti, l'eterno fuggitivo, piccolo e imbarazzante, dal Fatto Quotidiano del 30 marzo. Da anni l'Italia cerca di ottenere dal Brasile l'estradizione di Cesare Battisti senza ottenere risultati. A nulla è valso anche l'appello rivolto nel 2009 da Giorgio Napolitano al presidente Lula. Ma più che il Brasile, il vero rifugio per gli ex terroristi è la Francia, che da sempre protegge i nostri criminali e ne rifiuta l'estradizione. Gilles Martinet, ambasciatore francese in Italia dal 1981 al 1985 e portavoce di François Mitterrand, fu considerato uno degli artefici della dottrina che prese il nome del presidente sul diritto d'asilo in Francia. Gli anni passano e per alcuni i reati sono caduti in prescrizione, come è stato per l'ex leader di Potere Operaio Oreste Scalzone, condannato a 16 anni, rifugiato in Francia e tornato in libertà nel 2007. Proprio la Francia, tra il 1978 e il 1982, grazie alla dottrina Mitterrand, offriva protezione negando l'estradizione a persone imputate o condannate, in particolare italiani ricercati per atti di natura violenta ma di ispirazione politica, purché avessero rinunciato a ogni forma di violenza, concedendo di fatto il diritto d'asilo. Per questo motivo, in quel periodo, era diventata la meta di una migrazione di massa dei ricercati per gli anni di piombo. Oltre 400 eversivi italiani cercarono protezione all'ombra della Torre Eiffel. Tra i rifugiati a Parigi fino al 2004 figurava anche Cesare Battisti, oggi sottoposto a una procedura d'espulsione in Brasile. Nel 2002 la dottrina Mitterrand è stata de facto abrogata quando fu concessa l'estradizione dell'ex BR Paolo Persichetti, ma la disciplina non è stata applicata sempre in modo uniforme e ogni caso ha fatto storia a sé. Come quando nel 2007 a Parigi venne arrestata l'ex BR Marina Petrella, condannata in Italia all'ergastolo nel processo Moro. La donna, alla notizia di un possibile rimpatrio, smise di mangiare, dichiarando «consegneranno solo il mio cadavere». Al suo capezzale arrivò la premier dame Carla Bruni e l'anno successivo il presidente Nicolas Sarkozy decise la revoca della sua estradizione per motivi umanitari, viste le sue precarie condizioni di salute. In terre francesi, per fare qualche altro nome, trovarono rifugio Giorgio Pietro Stefani. Scappò in Francia prima della sentenza e da anni ormai è rifugiato non sappiamo bene dove. Condannato a 22 anni di carcere assieme ad Adriano Sofri e Ovidio Bonpressi per l'omicidio del commissario Calabresi. Enrico Villimburgo, altro brigatista condannato all'ergastolo nel processo Moroter. Simonetta Giorgeri e Carla Vendetti, sospettate di contatti con le nuove Brigate Rosse per i delitti d'Antona e Biagi. Anche Franco Piperno, coinvolto nel rogo di Primavalle in cui persero la vita i fratelli Mattei, durante la latitanza si rifugiò in Francia, poi in Canada. Per lo stesso fatto, Manlio Grillo trovò rifugio in Nicaragua e il suo ex compagno di potere operaio Achille Lollo in Brasile. Nel 1993 il Tribunale Supremo Federale rigettò la richiesta di estradizione presentata dall'Italia. Per entrambi la condanna fu a 18 anni di reclusione, oggi prescritta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Caterina Minnucci «Quando Parigi diventò colonia degli ex terroristi» dal Fatto Quotidiano del 30 marzo. La caduta del muro di Berlino aveva rappresentato un punto di arrivo e un messaggio di speranza per la generazione che aveva raccolto l'eredità di genitori e nonni che avevano sconfitto le ideologie. 20 anni dopo, la crisi ha costretto i nuovi giovani a crescere in fretta, a prendersi la responsabilità di accettare la sfida e difendere i diritti acquisiti e gli stili di vita conquistati a fatica dalle generazioni precedenti. Ma come gestiscono il potere i 30-40enni di oggi? A questa domanda rispondono due saggi appena pubblicati, La prova del potere di Giuliano da Empoli e Generation Gueule de Bois di Raphaël Glucksmann. Ecco cosa scrive da Empoli a proposito delle nuove generazioni al potere in Italia, in un'anteprima pubblicata sull'ultimo numero del magazine Il. Si dice spesso che il nostro paese non riesce più a immaginare il futuro. Ma il vero problema è che abbiamo perso di vista il passato. Non riusciamo più a collocarci in una traiettoria storica, a inquadrare il nostro presente sulla base del percorso che ci ha condotti fin qui. Un po' come il dormiglione di Woody Allen, che si risveglia all'improvviso in un futuro del quale non riesce a capire il senso. Per questa ragione siamo intrappolati sotto la cappa di un eterno presente privo sia di memoria sia di prospettive, nel quale tutto, dibattiti, problemi e personaggi, soprattutto personaggi, si ripresenta continuamente sotto forma di farsa. Nessuno si aspetta che l'Italia del 2015 faccia registrare gli stessi tassi di crescita del 1960. Quelli sono numeri riservati alle economie in fase di sviluppo e non a caso oggi appartengono al Vietnam e all'Angola. Anche in un contesto di questo genere, però, le grandi potenze industriali dell'Occidente continuano a giocare un ruolo, a produrre innovazione e in qualche misura a crescere. L'Italia intera sembra invece aver imboccato la strada dei giardinetti di Velletri. A mio parere, ciò dipende dall'amnesia, assai più che dallo spread. E fino a quando permetteremo che la memoria di una delle nostre stagioni più gloriose sopravviva a malapena all'estrema periferia della coscienza nazionale, non ci sarà manovra finanziaria in grado di farci uscire dalla crisi. Al picco dell'era industriale, fondata sui grandi numeri e sui modelli standard, i nostri artigiani sembravano dinosauri, la sopravvivenza di un'antica tradizione destinata a essere spazzata via dalla modernità. Oggi sappiamo che quello è il futuro della manifattura, piccole produzioni di qualità, cariche di senso e fatte su misura. Oggi una nuova generazione si affaccia sulla scena. Di tutte è la più improbabile, quella che nessuno si aspettava di vedere spuntare tra gli ori dei palazzi e i riflettori degli studi televisivi. Li chiamavano bamboccioni. I nati tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80 sembravano il vaso di coccio tra due generazioni di ferro. Quella lirica, sicura di sé, dei figli del 68 e del 77, e quella digitale, altrettanto sicura di sé, degli iPhone e dei social network. Da una parte i nativi dell'ideologia, dall'altra quelli della tecnologia, entrambi abituati al tutto e subito, insofferenti nei confronti di qualsiasi ritardo e di ogni tentennamento, Nel mezzo, la generazione X, incerta su tutto, composta di individui diversi perfino da se stessi, figuriamoci dagli altri. La classe d'età meno uniforme della storia, la più sciancata al punto che nessuno era mai riuscito a definirla in positivo. Un'armata brancaleone dei disadattati, insicuri che provavano a costruirsi una scialuppa con due tavole di cartone e un rotolo di scotch. Il fai da te come unica prospettiva esistenziale. Mai un manuale di istruzioni che fosse uno. Eppure, da questo insieme di debolezze, è scaturita una forza imprevista. La dimissione dei maestri e dei padri ha costretto trentenni e quarantenni a scavare più a fondo, ad andare a cercare modelli più indietro nel tempo. Così, molto spesso, hanno finito con l'imbattersi nei nonni, più disponibili a tramandare la passione per la semplicità scabra delle cose perse una per una, per l'immediatezza della natura e dell'esperienza, come diceva uno dei maestri più grandi di quell'età, Nicola Chiaromonte. Si parla sempre dei cervelli fuggiti, degli italiani che mietono successi nelle aziende e nei centri di ricerca di Sydney e di Boston, ma ce ne sono tanti altri, che anziché cercare nella geografia la chiave della loro riuscita, i 30-40enni che producono un impatto sull'oggi hanno una curiosa caratteristica in comune, l'inattualità. Sono tutti un po' sfasati rispetto al nostro tempo. Ed è proprio questa impercettibile dissonanza che permette loro di essere contemporanei fino in fondo, di indirizzare il proprio tempo, anziché farsene schiacciare. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del nuovo libro di Giuliano da Empoli, La prova del potere, pubblicato in anteprima sul numero di aprile del magazine Il. Your words so smooth, soft as velvet. Mandano cuori e baci su WhatsApp, mettono like su Facebook oppure si spingono a chiedere una foto sconcia via Snapchat. E ne mandano a loro volta, qualche volta rendendole pubbliche per errore. Un tempo scrivevano lettere d'amore, come quelle che lo scrittore, giornalista e critico letterario Giorgio Manganelli mandò alla sua amata Viola Papetti. Nell'estate 1968, in mancanza di Twitter, le scrisse: «Mi piace quel corpo perché è tuo». Lo porti come un modo per consentire l'accesso a te, a quel fulvo calore che ora ha avuto ragione dell'inveterato gelo della tua pelle. Ti scrivo e ti desidero. Vorrei che ti arrivasse, che ti disturbasse gli ozi madrileni, il desiderio, il puro e crudo desiderio di averti, di progettare un incontro, di fantasticare nuovi abbracci, di sentire in me e in te il languore della saliva, del sudore, l'indulgenza e il furore delle mucose, della rosa cedevole e della rosa penetrativa. Esisterà mai un emoticon per la rosa cedevole e per la rosa penetrativa? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Per fortuna Manganelli non twittava, dal numero di aprile del magazine Style.